La Anthony Perkins Productions presenta A Rebours. Marginali d'ogni tempo e d'ogni arte, o quasi. Benvenuti agli ascoltatori di Radio ZM Radio Zan per questa nuova puntata di A Rebours 30 minuti con un marginale dell'arte. A dire la verità, questa sera con dei marginali dell'arte, perché si tratta di un gruppo italiano. Ma il nome ve lo faccio intuire da questa lettura fatta dal grande Carmelo Mello. Uno solo poteva ridere mentre De Rossi diceva dei funerali del re. E Franti rise. Io detesto costui. È malvagio. Quando viene un padre nella scuola a fare una partaccia al figliuolo, egli ne gode. Quando uno piange, egli ride. Trema davanti a Garrone e picchia il muratorino perché è piccolo. Tormenta Crossi perché ha il braccio morto. Schernisce Precossi, che tutti rispettano. Burla perfino Robetti, quello della seconda che cammina con le stampelle per aver salvato un bambino. Provoca tutti i più deboli di lui, e quando fa pugni si inferocisce e tira a far male. C'è qualcosa che mette ribrezzo su quella fronte bassa, in quegli occhi torbidi, che tien quasi nascosti sotto la visiera del suo berrettino di tela cerata. Non teme nulla, ride in faccia al maestro, ruba quando può, nega con una faccia invetriata. È sempre in lite con qualcheduno, si porta a scuola degli spilloni per punzecchiare i vicini, si strappa i bottoni della giacchetta e ne strappa gli altri, e li gioca, e ha cartella, quaderni, libri, tutto sgualcito, stracciato, sporco. La riga dentellata, la penna mangiata, le unghie rose, i vestiti, pieni di frittelle e di strappi, che si fa nelle risse. Dicono che sua madre è malata dagli affanni che egli le dà, e che suo padre lo cacciò di casa 3 volte. Sua madre viene ogni tanto a chiedere informazioni e se ne va sempre piangendo. Egli odia la scuola, odia i compagni, odia il maestro. Il maestro finge qualche volta di non vedere le sue birbonate, ed egli fa peggio. Provo a pigliarlo con le buone ed egli se ne fece beffa. Gli disse delle parole terribili ed egli si coprì il viso con le mani come se piangesse. E rideva. Fu sospeso dalla scuola per 3 giorni e tornò più tristo e più insolente di prima. De Rossi gli disse un giorno: «Ma finiscila! Vedi che il maestro ci soffre troppo!» Ed egli lo minacciò di piantargli un chiodo nel ventre. Ma questa mattina, finalmente, si fece scacciare come un cane, mentre il maestro dava a Garrone la brutta copia del tamburino sardo, il racconto mensile di gennaio da trascrivere, egli gettò sul pavimento un petardo che scoppiò facendo rintronare la scuola come una fucilata. Tutta la classe ebbe un riscossone, il maestro balzò in piedi e gridò «Franti, fuori di scuola!» Egli rispose, non sono io, ma rideva. Il maestro ripeté, va fuori. Non mi muovo, rispose. Allora il maestro perdette i lumi, gli si slanciò addosso, lo afferrò per le braccia, lo strappò dal banco, egli si dibatteva, digrignava i denti, si fece trascinare fuori di viva forza. Il maestro lo portò quasi di peso dal direttore e poi tornò in classe. Solo, e sedette al tavolino, pigliandosi il capo fra le mani, affannato, con un'espressione così stanca e afflitta che faceva male a vederlo. «Dopo 30 anni che faccio scuola», esclamò tristemente crollando il capo. Nessuno fiatava. Le mani gli tremavano dall'ira e la ruga diritta che in mezzo alla fronte era così profonda che pareva una ferita. «Povero maestro!» Tutti ne pativano. Derossi s'alzò e disse: «Signor maestro, non si affligga. Noi le vogliamo bene». E allora egli si rasserenò un poco e disse: «Riprendiamo la lezione, ragazzi». Se avete più di 50 anni e siete appassionati di musica italiana, avrete indovinato che sto parlando del collettivo musicale torinese dei Franti, attivi tra l'82 e l'87, un gruppo che aveva fatto una scelta rigorosissima di indipendenza totale dalle logiche dei canali del mercato discografico. Non erano iscritti alla SIAE, perché per loro il copyright era una forma di fascismo, incidevano per una propria etichetta quando non era tanto facile farlo, che si chiamava Blue Bus, di cui facevano parte anche un gruppo hardcore come che si chiamavano Kina, e la loro attività è durata solo dall'82 all'87, per il tempo di praticamente 3 dischi, il primo in realtà uscito in cassetta e poi ripubblicato, uno fatto a metà con il gruppo hardcore Contrazione e l'altro che è un oggetto che sono orgoglioso di possedere, Il giardino delle 15 pietre, che è praticamente un libretto con i loro pensieri dal formato di un vinile in cui è infilato anche un disco bellissimo, e dopo decisero di sciogliersi. È continuata la carriera solista poi soprattutto della loro cantante Lalli e del loro chitarrista, sassofonista, vocalista occasionale, perché condividevano con una delle loro ispirazioni di ex di Los Angeles il fatto delle due voci. Sto parlando di Stefano Giaccone. Insieme a loro c'erano Vanni Picciuolo, Massimo D'Ambrosio, Marco Ciari, che era stato il batterista anche di molti gruppi torinesi della scena dell'epoca che era ricchissima e fervida, più altri musicisti, perché ha detto collettivo aperto. E adesso ce le andiamo a sentire insieme a qualcos'altro. stricca la regola che non ci funziona più, per spezzar poi tutto con radicalità. Noi abbiamo la presunzione, e francamente credo che ci stiamo riuscendo, in piccoli ambiti, di essere gente che suona, ma non musicisti slegati dalla realtà. Rispetto a gente come i CCCP, è questo che intendo dire per moda. Sostanzialmente in questi ultimi anni la caratteristica della gente che si mette a suonare è di trovare l'ultimo ritrovato che rimbecillisca la gente. Si rifanno gli anni 60, tra poco faranno gli anni 40, poi si tira fuori il sovietismo. Così, se io oggi mettessi su un gruppo chiamato AIDS, farei soldi a palate. È vero, è quello che si pensa oggi della musica, un modo di uscire fuori dalla monotonia della vita, affermarsi in qualche maniera utilizzando qualsiasi sistema. Con la rivoluzione post-industriale viviamo in una società agli inizi di una grande trasformazione economica provocata dalle nuove tecnologie che hanno cambiato tutto. Ciò ha distrutto tutte le nostre concezioni di trasformazione del mondo, le concezioni riformistiche, tant'è vero che il PC non riesce più a rappresentare le istanze riformistiche della gente, le concezioni insurrezionalistiche, tant'è vero che abbiamo preso una bastonata spaventosa con una generazione intera sbattuta in galera o sottoterra. Ormai le classi sociali si sono enormemente trasformate al punto da non sapere più se esistono o meno. A questo punto i giovani non si organizzano più, né operai con operai, contadini con contadini e proletari con proletari. Ci si organizza crestati con crestati, metallari con metallari, new wavers con new wavers, tribalismo postmoderno. Ma su questo bisogna fare molta attenzione, perché anche tutte queste divisioni sono di comodo e non riescono a interpretare la realtà così com'è. Non bisogna poi dimenticare che quando parliamo di Joy Division stiamo sempre parlando di una realtà molto molto marginale rispetto alla situazione del mondo. Quando leggo sui dischi dei CCCP e di altri la società post-industriale, il mito della cibernetica, eccetera, tutte cose vere, però perché non ci domandiamo del 70% di ragazzi come noi, che in questo momento sta crepando di fame in giro per il mondo? Questa è una realtà. Cazzo, non possiamo continuare a parlare di Joy Division, perché quella è una realtà minima del mondo e noi facciamo parte di questo mondo. Per ogni birra che bevo, per ogni caloria che prendo in più del necessario, vuol dire che c'è un gagno africano che non mangia un cazzo. Chains, a noose of charms on our Avete sentito nell'ordine No Future dei Franti, per l'appunto l'Elefanto Bianco degli Aria, che sono l'altra grande ispirazione dei Franti, un estratto della bellissima intervista di Stefano Giaccone a una meravigliosa fanzine che si chiamava Snowdonia e c'è scritto sopra Autunno Inverno 85, anche questo tratto dal meglio della mia collezione di cose dell'epoca, e in successione l'altra ispirazione dei Franti, gli ex di Los Angeles con White Girl, e poi sempre i Franti io nella notte. E mentre andiamo verso la fine di Arebur, il resto della programmazione di Radio ZAM, Radio ZAM, che vi accompagnerà verso la notte, stiamo sentendo in sottofondo un altro pezzo dei Franti, a cui vi lascerò salutandovi. L'uomo dal balcone di Beckett. Al prossimo mercoledì per Ulisse contro tutti, tra due mercoledì per Arebur. Buon proseguimento! Per uscire di città. son rientrato e mi sono à rebours.